Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, di nuovo i mercati alla faccia di chi ieri parlava di un tentativo di rimbalzo che noi obiettivamente non abbiamo mai visto nemmeno ieri. Oggi Parigi perde il 3,40%, Francoforte il 2,30%, Londra il 2,20%, Milano il 2,5%, l'America cede l'1,3%. Giornata strana però, perché vanno male tutti i titoli legati alle banche, anche gli energetici, però l'euro è in rafforzamento, 1,24,65, per cui non c'è quella mossa o quell'attacco concentrico, come alcuni l'hanno chiamato, a cui abbiamo assistito alcune settimane fa: borse che vanno male, euro che si indebolisce, anzi l'euro si è leggermente rafforzato. Ci sono alcune notizie non belle da parte delle agenzie di rating. Moody's, che ha messo sotto osservazione il debito spagnolo, dicendo che le agenzie di rating sono le agenzie che danno il voto ai debiti, anche il voto ai debiti dei paesi sovrani, dicendo che le prospettive sul debito spagnolo sono negative, e ha già declassato invece il debito di 5 importanti regioni spagnole. Poi, come se non bastasse, poco fa è uscita un'altra agenzia di rating, un'altra delle agenzie, sono tre alla fine, Moody's, Fitch e Standard & Poor's. Fitch ha sostanzialmente detto che l'Europa rischia l'ingresso in una nuova recessione. Adesso ne parleremo, ma insomma la crisi del debito europeo, con i suoi effetti negativi sulla fiducia dei consumatori, ha aumentato il rischio di una nuova recessione in Europa. Chiaro, con questi giudizi, con queste notizie, non poteva andare molto diversamente in borsa. Devo dire che anche le notizie invece sul fronte dell'economia reale sono un po' meglio, perlomeno in Italia, dove la produzione industriale misurata oggi dal Centro Studi di Confindustria ha segnato un ulteriore incremento. Cercheremo di capire come si tengono assieme le due cose, cioè lo scetticismo forte dei mercati finanziari e i dati invece che arrivano dall'economia reale, continuando le nostre interviste. Oggi sarà la volta di Francesco Giavazzi, editorialista del Corriere della Sera, che spesso è stato anche accusato di non aver fatto autocritica sull'elogio alla finanza, alla finanziarizzazione, alla globalizzazione del mercato. Comunque cerchiamo di capire appunto quali siano gli elementi di tensione. 349-238-6666 per i vostri sms. Buone notizie invece per la Glaxo, e anche di questo parleremo. E attendiamo alle 18 i dati sulle immatricolazioni auto, ma già si sa, ieri le prime anticipazioni, che saranno brutti, probabilmente con calo a due cifre in Italia l'andamento delle immatricolazioni auto. Del resto, con i consumi che latitano, con la disoccupazione in aumento, è difficile che, diciamo, il primo istinto, il primo bisogno delle famiglie italiane sia quello di cambiare l'autovettura. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Petrolio, ve lo diamo subito, il petrolio in leggero calo a $74,7 al barile. Per quello che riguarda invece altre notizie di carattere internazionale, negli Stati Uniti sono aumentate le richieste di sussidi di disoccupazione, ci si attendeva un calo e invece più 13.000, altro che calo. Acquisto casa negli Stati Uniti meno 30% nel mese di maggio rispetto al mese di aprile, il calo più forte dal 2001, oltre ogni previsione degli analisti. Anche la spesa per edilizia in America cala, meno 0,2%, cioè quello che, su cui i mercati si stanno concentrando, questo rallentamento, oltre che della crescita cinese, ma dell'America. Si sta capendo che in America, perlomeno questo ci raccontano i nostri ospiti, la ripresa che sarà vista era una ripresa tutta guidata dagli investimenti pubblici, da vari elementi di privato, della componente privata nei consumi, e nella ripresa c'è molto poco. Infatti spesa per l'edilizia è meno 0,2%, primo calo in tre mesi, ed è calato anche l'indice che misura l'andamento del settore manifatturiero a 56,2 punti. Si sta risvegliando un nostro volatile, un volatile molto conosciuto in questi anni. Comunque andiamo avanti. La Camera americana invece ha dato via libera alla riforma finanziaria, senza però la tassa sulle banche, una tassa da 19 miliardi sull'industria bancaria che è stata abolita. E poi ci sono anche casi interessanti, persone che si sono reinventate un lavoro con questa crisi. Carlo Del Mistro è un ex dipendente di Lehman Brothers, che era uno dei manager, degli yuppies più rampanti dell'alta finanza. Insomma, è riuscito a creare una catena, è un imprenditore italiano, magari lo cerchiamo nei prossimi giorni. Ha creato una catena a Londra che si chiama Gelato Mio, e praticamente vale, fattura attualmente 1 milione di sterline l'anno, cioè 1.300.000 euro, vado a spanne con il cambio. E la cosa interessante è appunto che lui ha semplicemente copiato le gelaterie italiane e le ha trasferite a Londra, quindi da Lehman Brothers ai gelati, insomma, sicuramente più sano quello che fa adesso. Volete sapere di Fitch? E allora, poco fa, la crisi del debito europeo con i suoi effetti negativi sulla fiducia dei consumatori ha aumentato il rischio di una nuova recessione, lo dice appunto l'agenzia di rating Fitch nel suo rapporto trimestrale sull'andamento dell'economia. Fitch mantiene la convinzione che la ripresa globale resti in carreggiata, anche se a un ritmo disomogeneo a seconda dei paesi. E il rischio di una ricaduta in recessione dei paesi europei è aumentato, però la probabilità che il consolidamento fiscale possa portare le maggiori economie avanzate nei complessi in una nuova recessione nel breve termine rimane bassa. La crescita globale, le previsioni di crescita globale vengono aumentate. Insomma, a Fitch il gufo glielo diamo per un motivo molto semplice: o sono più chiari, oppure questo, come sempre, è in qualche modo, crea solo allarmismo sui mercati. Che senso ha dire che aumenta il rischio di una nuova recessione in Europa se poi però aggiungi che nel complesso il rischio di una nuova recessione nel breve termine resta basso? Gufo. Gufo per la scarsa chiarezza in questo comunicato. Tutto è il contrario di tutto. Siamo un po' stanchi anche noi di commentare notizie del genere con i mercati che poi ne fanno quello che vogliono. Andiamo avanti. I titoli: chi perde di più? Azimut, risparmio gestito -6,6%, Luxottica -5,80%, Italcementi -4,70% e ancora Unipol -4,40%, Mediaset -4% come Fiat, il 3,90% Fondiaria di calo, l'Eni perde il 3,5%, le CIR il 3,20% come Pirelli, e ST Microelectronics perde il 3,1%, Buzzi Unicem il 2,90% come Saipem. Chi guadagna? Poco roba. Snam Rete Gas +2%, Terna +0,34%, e poi la Popolare di Milano perde poco, lo 0,20% come UbiBanca, e anche il Banco Popolare, che tutto sommato perdono poco, lo 0,20% UbiBanca e il Banco Popolare -1%. L'Italia, veniamo invece ai temi legati anche al federalismo fiscale, ma dicevo, visto che abbiamo appena mandato un gufo, cerchiamo anche di risollevare un po' il morale e vediamo che cosa è successo con la Glaxo, o meglio il centro di ricerche Glaxo di Verona, che annunciò, lo ricorderete, qualche mese fa la chiusura del centro di ricerca di Verona e quindi 350 ricercatori a spasso. Per fortuna passerà all'americana Aptuit. Stamattina le aziende e i sindacati hanno firmato l'accordo, e questo permetterà la continuità del centro con la cessione all'Aptuit e la tutela dell'occupazione dei 462, per essere precisi, non 350, ricercatori del centro veronese. Una buona notizia, perché veramente in questo periodo le cerchiamo con lanternino. Una buona notizia: continuità garantita per i ricercatori della Glaxo, almeno per loro annuttata e passata. Sulla FIOM, poco fa il ministro Sacconi ha detto, scusatemi, su Pomigliano d'Arco e la posizione della FIOM, botta e risposta tra il ministro Sacconi e appunto la FIOM. Sacconi ha sostenuto la panna andrà comunque a Pomigliano d'Arco, la porta è sempre aperta anche per la FIOM. Ha risposto invece il leader della FIOM, CGL Landini, che ha detto Sacconi non è super partes, parla ma non è super partes come dovrebbe essere in questa vicenda. Risposta, nuova botta risposta di del ministro Sacconi, che ha detto la Fiom dice che non sarei super partes, sono le mie convinzioni, ma cerco di fare in modo che le cose vadano avanti con il maggior consenso possibile. Va bene, andiamo col primo tema. Cosa sta capitando all'economia a livello mondiale, devo dire, perché adesso c'è un miglioramento, c'è stato, Milano perde solo il 2, Parigi solo il 3, Francoforte solo il 2, l'America solo l'1,20%, ma insomma ci sono un insieme di scricchiolii che non ci piacciono per nulla, anche perché appunto gli indicatori macroeconomici come quelli che ricordavamo, per esempio della produzione industriale in Italia, sono indicatori non male. L'Italia ha chiuso un 2009 come anno terribile sul fronte investimenti. Il 2009 è stato l'anno peggiore per quello che riguarda gli investimenti nel paese, ma la produzione industriale a giugno ha fatto un più 1,1% sul mese, più 10% rispetto all'anno prima, per cui il 2009 ormai lo sappiamo che è stato l'anno terribile, il crollo degli investimenti del 12% non si vedeva dal 93, però i dati congiunturali continuano a essere migliorativi. E allora il perché di tutto questo nervosismo, fragilità, ondate ribassiste? 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora partiamo con il bollettino. Cosa è successo oggi? L'Euribor, il tasso interbancario, quello che serve anche per calcolare il mutuo, è salito ai massimi dal settembre 2009, quello a tre mesi, è salito allo 0,78%. Ma al di là di questo, la Banca Centrale Europea oggi ha erogato dei prestiti per un totale di 111 miliardi di euro alle banche, prestito a 6 giorni, per permettere alle banche praticamente per sostenere le banche che stanno ripagando il prestito da 442 miliardi che la Banca Centrale concesse un anno fa proprio al sistema bancario europeo per evitare, diciamo così, la crisi da credito, la crisi di liquidità. Tra l'altro a questo prestito hanno fatto ricorso 78 banche europee per un totale appunto di 111 miliardi. Il tasso con cui è stato erogato dell'1%. Bene anche il collocamento di obbligazioni spagnole, quelle a 5 anni, i BTP a 5 anni spagnoli, 3 miliardi e mezzo di euro collocati oggi. Buona la domanda, una volta, quasi due volte l'offerta, una volta 1,7 l'offerta. I rendimenti però sono saliti al 3,65% contro il 3,53% di maggio, quindi per gli stessi titoli, per gli stessi BTP a 5 anni. E infatti salgono sia i rendimenti delle obbligazioni spagnole, cioè quanto costa la Spagna trovare e quanto deve offrire la Spagna per trovare compratori per il suo debito, il rendimento è salito, non è una bella notizia, ed è aumentata la differenza tra quanto rende un'obbligazione spagnola e quanto rende un'obbligazione tedesca, ma soprattutto sono saliti anche i CDS, i credit default swaps, ossia i premi della polizza assicurativa per chi vuole assicurarsi contro il rischio debito di un paese se ha comprato debito, sono saliti infatti a 273 punti. E appunto, e poi Moody's che ha detto che ha messo sotto osservazione il debito spagnolo con la prospettiva di abbassarlo e ha già tagliato il voto a 5 regioni spagnole. Poco fa anche il premier spagnolo Zapatero ha detto: non abbiamo nessun problema di solvibilità, però vorrei capire che cosa sta succedendo, e vorrei farlo con Francesco Giavazzi, che è docente di economia politica all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista del Corriere della Sera. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, professor Giavazzi, lei tempo fa, proprio sul Corriere della Sera, se non ricordo male un mese fa, scrisse: attenzione, qui i mercati e la comunità finanziaria si attendono delle risposte un po' più forti sulle politiche di bilancio e per esempio riforme strutturali come l'età pensionabile e quant'altro, perché senza queste risposte forti probabilmente si continuerà a ballare per un po'. Mi sembra che siamo in questa situazione, cioè in assenza di forti notizie, però i mercati restano molto molto nervosi e fragili. Che cos'è che non è arrivato secondo lei in queste settimane, anche alla luce dell'ultimo G8 che si è tenuto a Toronto? Secondo me quello che i mercati si aspettano è una risposta delle politiche fiscali che tenga conto della situazione peculiare dei diversi paesi. Sono paesi che possono permettersi potrebbero permettersi ancora una politica di bilancio relativamente rilassata, perché hanno condizioni di debito relativamente tranquille, ho in mente in particolare la Germania. Invece paesi che hanno debiti più elevati, dai quali i mercati si aspettano un'azione più forte. Un errore che c'è stato è quello di dire che c'è una politica che va bene per tutti, la stessa non va bene per la Germania come per l'Italia, la Spagna o la Grecia, perché dietro c'è un pochino la preoccupazione del 1937, cioè nel 1937, se guardiamo i libri di storia, si vede che dopo la botta del 29 ci furono 4 anni fino al 37 appunto di ripresa molto vigorosa. Poi nel 37 ci fu un'uscita troppo rapida da politiche accomodanti e nel 38 il PIL americano ha fatto meno 4,5%. Poi non sappiamo cosa sarebbe successo, perché nel 39 scoppia la guerra e quindi le cose vengono prese dalla guerra. Quindi c'è da un lato una preoccupazione che alcuni paesi stanno uscendo troppo rapidamente da politiche delle quali forse c'è ancora bisogno. Altri che invece, penso alla Grecia, fanno troppo poco, perché la Grecia ha fatto tanti annunci, ma in realtà di implementazione di politica finora c'è poco. Ecco, oggi di nuovo sono tornate sul palcoscenico le agenzie di rating. Oltre a Moody's, anche Fitch è uscito con un comunicato in cui dice: attenzione, la crisi del debito europeo con i suoi effetti negativi sulla fiducia dei consumatori ha aumentato il rischio di una nuova recessione in Europa. Fitch si è già presa il nostro gufo, ma al di là del gufo, mi scusi, secondo lei c'è veramente il rischio di quello che in americano si chiama il double dip, cioè dopo la recessione una piccola ripresa e poi di nuovo una doppia, diciamo, recessione? Beh, se voi guardate a Eurocoin, che è l'indicatore calcolato dalla Banca d'Italia e dal CPR di Londra, la cui ultima osservazione è uscita 2 o 3 giorni fa, Eurocoin è un leading indicator, cioè un indicatore che guarda avanti, e negli ultimi 2 dati di Eurocoin, cioè quelli relativi a maggio e a giugno, c'è il double dip. Ora, ovviamente non c'è ancora nei dati sul PIL, però se uno ritiene che Eurocoin sia un buon previsore di quello che può accadere, il double dip c'è molto chiaramente. Allora, se ho ben capito, lei dice attenzione, alcuni paesi stanno tornando, e nel caso specifico la Germania preme per delle misure un po' troppo in fretta, come se si fosse già completamente usciti da questa recessione, altri paesi invece hanno fatto ancora troppo poco, Grecia e anche Spagna. Mi sembra che lei dia abbastanza per scontato un nuovo segno meno, che però noi non vediamo ancora nei dati congiunturali. Anche il dato di oggi sulla produzione industriale, sono dati in Italia tutti in miglioramento, per carità, ci vorranno 2, 3, forse 4 anni per tornare sui livelli del 2007. Insomma, lei la prende molto come per scontata un'ipotesi di doppia recessione. Se voi guardate, se andate sul sito di Eurocoin, sul sito della Banca d'Italia, e guardate questo indicatore, questo è un leading indicator, cioè innanzitutto è un indicatore dell'area euro e non di un solo paese, poi è un indicatore che tiene conto non di un dato di produzione industriale, ma tiene conto. È un indicatore che finora ci ha preso abbastanza bene, adesso uno guarda con l'immagine visiva, capisce quanto ci ha preso o no, e la svolta degli ultimi 2 mesi è preoccupante, magari questo indicatore sbaglia, perché essendo un leading indicator non si basa su cose che guardano avanti. Ma faccia capire, perché lo chiedono molti ascoltatori al 349-238-6666, ma com'è che si è arrivati praticamente a un passo da una nuova botta recessiva? Cioè, nel senso, abbiamo raccontato fino a qua i disastri creati dalla finanza globalizzata, derivata e deviata, 2008, 2009 questo si trasferisce sull'economia e porta a un rallentamento, anzi a una recessione vera e propria di tutte le economie occidentali, questo si trasferisce poi sul mercato del lavoro e infatti la disoccupazione continua a essere in aumento, però nel frattempo i mercati si erano ripresi, l'economia, soprattutto grazie alla domanda asiatica, era tornata, anche l'export a migliorare. Com'è che si arriva a una seconda recessione? Ci sono 3 fattori secondo me. Uno è che, come diceva lei all'inizio, Dall'Asia, dalla Cina in particolare, ci sono segni di lieve rallentamento, quindi forse quel motore è meno forte di come si pensava. Secondo, che il risparmio delle famiglie negli Stati Uniti rimane elevato, ci sono alcuni segni positivi sui consumi, però il risparmio rimane certo più elevato. Poi soprattutto la disoccupazione scende molto lentamente, questa è, scusa, negli Stati Uniti una ripresa che ancora tocca molto lentamente la disoccupazione. A questi tre fattori si aggiunge la preoccupazione per un uso, secondo me, in alcuni paesi inopportuno della politica fiscale. Quello che bisognerebbe fare è stabilizzare le aspettative fiscali sul medio periodo, che vuol dire fare qualcosa sulle pensioni, sull'età di lavoro, sui costi della sanità, soprattutto in quei paesi che hanno fatto ancora poco. E fatto quello sul breve periodo, uno può essere relativamente rilassato sulla politica fiscale nel breve periodo. E questi quattro fattori sono mai quelli che danno incertezza. Poi come questi quattro fattori si manifestino in questo Eurocoin, in questo indicatore che ha la Banca d'Italia, insomma, mi colpisce che questo indicatore ha girato. Sì, colpisce anche noi, obiettivamente avremmo voluto non commentare questa notizia, però quando le dice politiche fiscali più accomodanti, immagina che ci sia più chiarezza sull'età pensionabile, sulle spese sanitarie, ma anche una possibile riduzione delle tasse, o perlomeno non aumento continuo delle tasse, perché poi le tasse non sono solo quelle sull'IPEF, l'IRAP e l'IVA, ci sono anche bisogna rendersi conto che ci sono i pedaggi autostradali, voglio dire, sono tasse indirette, parliamoci chiaro. Certamente, ci sono due orizzonti diversi, ci sono dei paesi, per esempio, guarda la Spagna fra 20 anni il costo dell'invecchiamento aggiungerà annualmente il 7% del PIL al disavanzo pubblico, una cifra enorme. Allora, il mercato guarda la Spagna, non si preoccupa tanto di quello che fa la Spagna questo mese, il prossimo, anche l'anno prossimo, si chiede se questo paese, di fronte a questa enorme spesa che viene davanti per l'invecchiamento, fa qualcosa oppure no. Se la Spagna fa anche qualcosa per sistemare il bilancio di questi anni, ma non fa nulla per l'invecchiamento, i mercati non sono evidentemente tranquilli, perché i mercati comprano titoli a 5-10 anni. Quindi, e invece se uno fa queste cose poi può essere relativamente rilassato sul breve periodo, in particolare può evitare di alzare le tasse, che certo non aiuta. Questo per quello che riguarda, diciamo, d'altronde, scusi, una prego. Cosa sola. Se voi andate a rileggere un bellissimo discorso che ha fatto Ben Bernanke in Texas alla metà di aprile, lui, pensando agli Stati Uniti, dice proprio la stessa cosa, dice la politica fiscale americana deve essere relativamente flessibile nel breve periodo, perché abbiamo tanti disoccupati, bisogna continuare a pagare sulla disoccupazione e certamente non vogliamo aumentare le tasse. Per stabilizzare le preoccupazioni sul debito pubblico americano bisogna fare qualcosa sugli entitlement, cioè sulle pensioni, su questa cosa qua. Mi scusi, una cosa però non sto capendo e vedo anche i nostri ascoltatori, ma insomma... Lei ritiene che sia più importante in questo momento avere politiche tra virgolette espansive, cioè quelle tipiche di quando si è in recessione, tenere basso il costo del denaro, imbarcare casomai un po' di deficit, spendere in opere pubbliche se ci sono i soldi, non toccare le tasse, possibilmente abbassarle, o ritiene alla fine che i paesi europei debbano iniziare con una politica di correzione perché i mercati li stanno bastonando? Non mi sono spiegato, ho detto due volte che bisogna considerare che sono due orizzonti temporali diversi, bisogna essere molto rigorosi sul medio periodo, quindi rigorosi sull'alzare l'età di pensionamento, perché andiamo fortunatamente al cimitero a vicino ai 100 anni e smettiamo di lavorare a 60, bisogna essere rigorosi sulla sanità, rigorosi sulle pensioni, eccetera. Se uno è rigoroso su queste cose, che sono quelle che determinano il rapporto debito pubblico fra 10 anni, quando scadranno sì. I BTP che compriamo oggi, allora uno può permettersi di fare delle politiche di breve periodo che aiutano la ripresa. I mercati sono preoccupati perché vedono che non si fa nulla sul medio periodo e invece si fanno delle cose che non aiutano la ripresa nel breve periodo. C'è l'opposto di quello che sta dicendo lei, per cui si stringe sul breve e non si fanno riforme strutturali sul lungo, mentre lei dice no, allarghiamo sul breve, ma perché facciamo riforme strutturali sul lungo e quindi tranquillizziamo da qui a 10-20 anni anche i mercati. Ho capito anch'io, diciamo, non è cosa da poco. Un'ultima domanda, professor Giovazzi. C'è chi, insomma, come lei, Alberto Alesina, ospiti molte volte nel nostro programma, negli anni scorsi, insomma, siete stati accusati di avere sempre elogiato la finanza globale, globalizzata, la liberalizzazione dei mercati, questi mercati assolutamente finanziarizzati, e alcuni hanno detto: beh, non è arrivata nessuna autocritica da chi per anni ci ha raccontato che Wall Street, l'America, era l'esempio, che questi mercati, che questa finanza internazionale era l'esempio, la liberalizzazione andavano fatte in quel modo, e ci siamo ritrovati con la peggiore crisi dal 29. Ecco, lei si sente di dover fare un po' di autocritica su questo, proprio come a livello accademico, anche oltre che pubblicistico? Io credo, diciamo, ci sono stati degli errori gravi di regolamentazione dovuti non tanto ai regolamentatori quanto alla politica, cioè in fondo se uno fa una lettura di quello che è avuto negli Stati Uniti è che c'è stata una fortissima pressione politica per dare una casa rapidamente a tutti gli americani, perché quando uno possiede una casa si sente veramente cittadino, e a questo si è sacrificata la prudenza nella vigilanza. D'altra parte però, se guardo gli Stati Uniti e all'Europa, gli Stati Uniti anche con un anno o due di recessione, se uno fa la somma di quanto sono cresciuti gli Stati Uniti dal 95 ad oggi, quindi in 15 anni, e fa la differenza tra quella crescita, anche tenendo conto della caduta adesso, e l'Europa, c'è ancora un gap molto ampio. Osservo anche che i paesi che continuiamo a dire sono stati più prudenti, hanno avuto una finanza più regolamentata come l'Italia, in questa recessione sono caduti più degli altri come gli Stati Uniti, quindi non è che poi avere una finanza regolamentata ci ha aiutato. Per cui, diciamo, non negherebbe nulla di quello che ha scritto nel passato? Sicuramente no. Va bene, grazie al professor Francesco Giavazzi, docente appunto di economia politica all'Università Bocconi di Milano e editorialista del Corriere della Sera. Grazie. Oh, l'autocritica non è un obbligo, lo dico a chi scrive, se non vuole la fa, se ritiene invece che tutto sommato sia stata più che altro colpa dei governi, dei politici, delle leggi. È giusto che lo dica, noi lo sapete benissimo, non la pensiamo esattamente così. Sono mancati i controllori, le regole, i controlli, ma anche, insomma, non è che se manca la polizia sull'autostrada puoi andare a schiantarti per forza. C'è stata una irresponsabilità complessiva della finanza che ha dimostrato che l'economia è una cosa troppo seria per essere lasciata in mano ai geni con i gemelli gessati di Wall Street. Meteo, pubblicità, poi la borsa che ha chiuso, e adesso la chiusura è definitiva, leggermente meglio di come non buttasse un'ora fa, -1,90% contro un calo del 2,4%, tra le peggiori Parigi, -3%, 349-238-6666 per i vostri sms. -17:41, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in questa giornata di borsa si è leggermente ripresa nel finale, ma insomma leggo alcuni messaggi che mi fanno anche sorridere, -1,9%. Dunque, ripeto, abbiamo chiesto al professor Giavazzi se la sentisse di fare un po' di autocritica, avendo lui elogiato l'economia così com'era fino a due anni fa. Ha detto di no, basta con di più, non è che possiamo obbligarlo. Su questo invece vedo molti messaggi preoccupati da quanto poco fa dichiarato ai nostri microfoni, ossia che tutti gli indicatori stanno portando verso un double dip, ossia una doppia recessione. Speriamo che si sbagli, speriamo che si sbaglino gli indicatori anticipatori. Certo è che il nervosismo sui mercati è fortissimo, e oggi contribuiscono anche le agenzie di rating, ripeto, che hanno abbassato il voto in alcune regioni spagnole, hanno detto che Fitch, che l'Europa è a rischio recessione di nuovo, e che la Francia vedrà il suo debito abbassato, è sotto osservazione per essere abbassato, la Spagna, scusatemi, non la Francia. Comunque, questo è lo scenario complessivo. Devo dire, oggi le notizie più brutte, non a caso l'America ancora perde l'1%, sono arrivate dagli Stati Uniti, perché insomma c'è stato un aumento a sorpresa dei sussidi di disoccupazione, un calo fortissimo delle nuove case, l'indicatore del settore manifatturiero è andato male, insomma tutta un'America molto molto in difficoltà, con un silenzio, un imbarazzo, devo dire a questo punto anche abbastanza forte, di Barack Obama, tant'è che la legge che è passata poi alla Camera americana ha levato la tassa alle banche da 19 miliardi, quindi insomma chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, quello che Wall Street ha causato non viene chiamata a contribuire anche successivamente, ha avuto prestiti, li ha ritornati, ho capito. Insomma, forse si poteva essere ancora un po' più incisivi, perlomeno visto quelle che erano le premesse della presidenza di Barack Obama, ma non sta a noi dirlo, invece sta a noi parlare di borsa. Paolo Paronetti, Radio Corriere del Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, no, continuo a ridere perché alcuni dicevo che scrivono che con Giovazzi sembravo padre Livio di Radio Maria che intervista la veggente di Medjugorje. Ma non è la veggente, nessuno qua è veggente. Altri di voi chiedono, ma insomma, se tutti i politici, gli economisti hanno capito tutto, perché nessuno fa niente? No, io ricordo quanto ci ha detto Mario De Aglio 3 giorni fa, qui nessuno ha capito niente, anche la politica stessa brancola nel buio, questa exit strategy, l'uscita dalla crisi, la strategia di uscita dalla crisi, qui non si capisce neanche come ci siamo entrati, come vuoi sapere come uscirne. Comunque, Paolo Paronetto, i dati americani sono quelli che hanno influito oggi. Sì, soprattutto quelli, si era già partiti male sull'uscita di un dato cinese non proprio rassicurante, che segnalava un possibile rallentamento della crescita dell'economia cinese. Poi i mercati sono stati un po' rassicurati dall'esito dell'asta di rifinanziamento con la BCE, che hanno evidenziato, ha allentato un po' i timori di una crisi di liquidità in Europa, ma poi sono arrivati alla fine i dati macroeconomici americani che hanno gelato i listini. Ricordiamoci inoltre che domani c'è il dato sul mercato del lavoro, ieri le prime indicazioni dell'agenzia ADP non sono state rassicuranti e oggi non lo sono stati nemmeno i sussidi, quindi in attesa di quel dato, che come ricordiamo sempre è molto importante, oggi gli investitori hanno venduto dopo il breve recupero di ieri e gli listini sono finiti in rosso. Sì, molti ascoltatori, devo dire, hanno ragione, fanno notare che anche il Baltic Dry Index è in netto calo. Allora, un indice che utilizziamo spesso misura quanto costa prendere a Noli cargo per prendere le principali rotte commerciali al mondo, non so, Shanghai, Amsterdam piuttosto che Londra, New York, e va a vedere quanto costa affittare un cargo. Perché è importante? Perché più basso il prezzo, meno merce sta girando. Più alto il livello di questo indice, più vuol dire che c'è merce, ci sono scambi commerciali, quindi costa di più noleggiare un cargo per il trasporto di tutto quello che è dry, quindi non olio, non petrolio, non materiale liquido. Ebbene, l'indice Baltic Dry, che viaggiava nel 2008, prima della crisi, intorno ai 12.000 punti, era crollato a 600 punti nel periodo peggio della crisi. Poi, già dal giugno del 2009 si era ripreso, era arrivato a 4.000 punti a dicembre, poi a gennaio ha fatto un po' su e giù, ma insomma a maggio era stabilmente a 4.000 punti. È 25 sedute che continua a essere in calo, cioè evidentemente lo scambio commerciale si è rallentato l'intero movimento di scambio commerciale a livello mondiale. Il Baltic Dry Index è sceso a 2.400 punti, ma quello che è importante è che è in continuo calo, vuol dire che costa sempre meno a prendere a Nolo un cargo per trasportare merci. Questa non è una bella notizia. Ti ho interrotto, Paolo Paronetto, ti ridò la parola per tutti i titoli che commenteremo dopo il traffico. 349-238-6666 per gli SMS. Di nuovo in diretta, allora, Paolo Paronetto, al di là dei motivi molto americani, vediamo chi ha sofferto di più. Pesantissimo il calo di Azimut, oggi meno 6,30% a 6,40 euro. Sì, non c'è nessuna ragione particolare, i titoli... Se te pareva. I titoli come quelli di Azimut, ma anche il comparto assicurativo, oggi è stato uno di quelli più colpiti. Azimut, ricordiamo, già qualche settimana fa aveva inanellato una serie di sedute negative, cercando poi di recuperare almeno in parte. Oggi sono tornate le vendite senza appunto nessun motivo particolare sul singolo titolo. Luxottica, non mi dire che l'euro che va a 1,2470, perché meno 5,70% è un po' tanto per una roba del genere. Ma sì, anche qui non né noi né gli operatori cercano di individuare cause singole, anche Luxottica è scesa come con la tendenza generale del listino, che ha risparmiato soprattutto e quasi soltanto i titoli tipicamente difensivi. Sì, neanche quelli. Tanto, perché Eni ha perso il 3,1%, Saipem il 2,40%, per cui insomma... Infatti i petroliferi, anche se non sono scampati, in questo momento c'è un petrolio in calo del 4% sul WTI, è intorno ai $73 al barile. Diciamo che solo le utilities oggi hanno tenuto, in particolare più che tenuto a Marite Gas, che ha guadagnato, cioè, l'unica ad avere un rialzo sul FTSE MIB, ha guadagnato oltre il 2%. Oggi è il primo giorno di aumento delle tariffe, ricordiamo che quelle del gas in Italia sono salite del 3,2%, e quindi oggi Snam approfitta di questo, un fattore che ha anche ottenuto l'approvazione ovviamente degli analisti sul titolo, che hanno tutti emesso oggi giudizi positivi. Terna più 0,50%, UBI Banca invariata, Popolare di Milano invariata, sono le migliori. L'Automatica meno 0,7 come Ansaldo. Tra chi invece ha perso molto, oltre a Azimut, Luxottica, anche Italcementi meno 4,80, Unipol meno 4,6, Fondiaria meno 4 come Fiat, il 3,90% il caro di Mediaset, il 3,3 quello di Pirelli, di Eni abbiamo detto, ST Microelectronics meno 3 come CIR, il 3% lo perde anche Boots Unicem, il 2,5 Exor, il 2,5 anche Saipem di calo, e poi Bulgari meno 2,3% come Mediolanum, il 2,2% è il calo di Autogrill e di Intesa San Paolo, il 2% lo perdono le generali. Allora, per quello che riguarda gli altri titoli, beh, Fiat fra pochi minuti usciranno le immatricolazioni, ci si attende un calo del 19%. Sì, esatto, Fiat complessivo, non so quanto su Fiat, ma insomma Fiat ha perso appunto quasi il 4%, diciamo che le stime diffuse anche ieri dal centro studi Promoto parlano di un calo a due cifre vicino al 20% per il mercato italiano in giugno. Adesso ci arriviamo alla matricola di borsa, vediamo, andiamoci subito, dai. Che è successo? Debutto brutto, sì. Meglio starsene a casa in certi casi che andare alle feste dei debuttanti, meno 20%. Sì, Tesmec, che è successo? Tesmec, la peggiore dell'intero listino, ha perso appunto il 20%. Diciamo che è stata coraggiosa, ma insomma non ha, almeno nel primo giorno non ha proprio pagato, anche in fase di sottoscrizione dell'offerta, diciamo che le azioni offerte erano state sottoscritte sì per intero, ma con una delle richieste appena pari, di pochissimo superiori all'offerta, già un segnale di quello che poteva essere l'andamento nel primo giorno di contrattazione. È stata anche una seduta particolarmente sfortunata per debuttare, e così il titolo è sceso del 20%. Vabbè, speriamo che domani rimbalzi, insomma, partire con un meno 20% è un po' come iniziare una partita di calcio perdendo subito 1-0, nessun riferimento a cose o persone. Stefanel meno 14%, Ross meno 10%, Intec meno 9,60%, Molecola Medicine SPA meno 8,86%, il migliore invece Fintel più 13%, Telecom Italia Media sul risparmio più 11,80%, De'Longhi più 5,60%, qui sarà il caldo, Cell Therapeutics più 5,3%, Aeroporto di Firenze più 4,91%. Tra i titoli, come sta andando? Com'è andata Iren, cioè la fusione tra Iride e Eni? Sì, appunto, il primo giorno col nuovo nome ha chiuso praticamente invariata, meno 0,08. Oggi c'è stata la presentazione, tra l'altro i vertici hanno assicurato una stabilità del payout circa 70%, quindi diciamo che in una giornata così il titolo è andato abbastanza bene, ha chiuso invariato. Beh, importante, almeno quella, insomma, Iride e Enia che si sono fuse, e poi ancora le banche. Devo dire, perché molti ascoltatori ce lo chiedono, oggi hanno tenuto, Intesa appunto meno 2,1, ma insomma non è stata una giornata per un credito meno 1,30, ma molte banche hanno tenuto, vuol dire anche a livello europeo non si sono concentrate sulle banche oggi le vendite. Sì, esattamente, infatti anche uno dei motivi, di solito lo diciamo al negativo, uno dei motivi per cui Milano ha fatto ad esempio un punto percentuale meglio di Parigi, Milano le banche pesano molto e oggi le banche, diciamo, nel calo generalizzato hanno abbastanza tenuto, in particolare le popolari, UbiBanca invariata, BPM appena in lievissimo ribasso, quindi oggi il settore ha resistito in parte ovviamente all'ondata generale di vendita. In particolare una cosa sulla Banca Popolare di Milano, sta partendo finalmente la procedura per la selezione del partner assicurativo, è stato definito il calendario e anche questo ha portato, diciamo così, in luce il titolo. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore. Tra pochissimo il nostro GR, poi dati auto e forse riusciremo a parlare anche con il numero uno dell'agenzia di rating Fitch, che oggi sono uscito con quel comunicato a nostro avviso gufante, non so se si può usare questo termine. Molti di voi dicono: ma insomma, con le borse messe così, dove mettiamo i soldi, i risparmi di una vita? Allora, potrei fare subito una promozione a Salvadanaio dalle 12 ogni mattina con Deborah Rosciani, e questa è la prima risposta. In secondo luogo, boh, si possono anche tenere i soldi per un po', con l'inflazione all'1%, o comprate obbligazioni tedesche, obbligazioni italiane, fermiamoci lì però, obbligazioni o materasso, oppure non lo so, oppure spendeteli, perché in questo momento sulle borse, ma lo dicono, ieri abbiamo avuto Giovanni Tamburi ospite, ha detto: attenzione, se tanto vi dà tanto, se le borse deve correggere sulla base di quello che sono le aspettative economiche, un altro 10% di calo sui listini in media, ci sta tutto. Quindi io obiettivamente i soldi li terrei o li investirei in strumenti iper garantiti, sicuri, obbligazioni più che certi prodotti che vendono certe banche, perché secondo me alla fine lì si vanno sempre a pagare le commissioni a sto punto. Tanto poi anche le banche si comprano le obbligazioni, allora comprate direttamente le obbligazioni. GR e poi dati auto e Fitch. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di dati auto e poi delle agenzie di rating. Una precisazione: abbiamo dato un consiglio su come investire, tenere i soldi sotto il materasso, tanto l'inflazione è bassa, o comprare obbligazioni in titoli di Stato, magari anche direttamente senza passare per certi prodotti delle banche, che in realtà hanno anche delle commissioni. Dopodiché, attenzione, io non faccio questo di lavoro, e ripeto, rimando, ma non per vigliaccheria, a Deborah Rosciani la mattina. Dico semplicemente che gli ospiti che abbiamo avuto in questi giorni hanno tutti detto: attenzione, i mercati potrebbero correggere di un altro 10%, perché ci sta tutto con questi chiari di luna. E anche oggi le notizie che sono arrivate, ripeto, di carattere economico, questa volta dall'America, segnalano un'America in cui sta ripresa economica non sta arrivando, perché è tutta finanziata col pubblico. Quando vai sul settore privato aumentano i disoccupati, crolla la vendita delle case e via così. E anche l'andamento del settore dell'indice manifatturiero americano, l'ISM, è calato più di ogni attesa oggi. Detto questo, vedo altre richieste: perché non investire in oro? Ma va benissimo, insomma, io questo non... Va bene anche l'oro, ci mancherebbe. A me sembra un po' altino, a record, ma ripeto, non faccio questo di lavoro, quindi non mi chiedete consigli che non sono in grado di darvi. L'ultima, volete sapere cosa ha fatto di nuovo la debuttante? Lo diamo per l'ultima volta, un pessimo debutto. Meglio rinviare il compleanno delle volte. Meno 20% a 56 centesimi di euro per azione. 349-238-6666 per i vostri SMS. E adesso parliamo di dati auto. Allora, sì, alcuni mi scrivono: ma insomma, adesso che il mercato è giù è il momento di comprare, ed è giusto comprare quando il mercato scende, non quando il mercato sale. Avete ragione. Alla domanda di un ascoltatore, i risparmi di una vita, io con i risparmi di una vita non investirei in borsa, proprio perché sono i risparmi di una vita. E che devo fare? Allora, Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, quanto perde il mercato auto? Meno 19? Cioè... Meno 19,12 per esattezza. Ecco, ci avevamo imbroccato. E quanto perde Fiat? Fiat perde meno 27,48. Ecco, allora andiamo a vedere poi i singoli marchi. Adesso, molto seriamente, tutti sapevamo che non sarebbe stato un bel mese. Nei mesi scorsi, a gennaio, il mercato ha fatto un più 30, febbraio un più 20, marzo più 19, aprile l'inversione di tendenza, anche perché sono finiti gli incentivi, meno 13, maggio meno 15. Come mai Fiat perde più della media di mercato? Perché aveva guadagnato più della media del mercato quando si può, c'erano sempre... gli incentivi alla rotazione. Questa è la risposta. Sì, sembra un po' una lista di borsa, Quagliano. Oggi sale perché ieri scendeva, oggi scende perché ieri saliva. No, però è proprio così. Cioè, ho guadagnato molto perché gli incentivi favorivano in particolare le auto a metano e le auto a GPL, le auto ecologiche, in cui la Fiat, soprattutto in quelle a metano, aveva una posizione molto forte, quindi ha tratto grandi vantaggi l'anno scorso degli incentivi. Una parte di questi vantaggi li sta perdendo ora. D'altra parte, adesso il confronto si fa proprio con giugno, che è stato il primo mese l'anno scorso in cui ci furono gli incentivi alla rotazione, cominciarono a dare degli effetti, perché c'è stata una partenza, come forse chi segue il mercato dell'auto ricorderà, piuttosto lenta l'anno scorso. Quindi la ragione del calo della Fiat... No, te lo chiedo perché in Francia invece, dove oggi c'erano i dati sulle matricolazioni auto, il mercato ha fatto meno 1,2, ma il gruppo Fiat ha fatto più 0,4. Per cui, siamo sempre in un range di 3 punti percentuali, direi che è poco significativo. In Francia è stata... perché segue il mercato, direi. Ci sono ancora incentivi in Francia, però. Vabbè, gli altri marchi invece come si sono mossi? Gli altri marchi, c'è chi guadagna e c'è chi perde, come sempre. Volkswagen guadagna, il 13, citando quelli che fanno numeri significativi, il 13,73. Scusa, ti ho perso chi è che fa più 13, scusami? Volkswagen, ok. Più 13,73, Smart fa il 12%, Opel il 5,16, Nissan l'1,89. E poi andiamo in territorio negativo, però con alcuni dati significativi, come Mercedes, che nonostante la situazione perde solo uno 0,90%, però c'è da dire che l'anno scorso non aveva avuto nessun vantaggio dagli incentivi. Ecco, Mercedes e BMW mi interessano, perché con questa crisi vorrei capire come si muove il mercato della fascia alta invece delle auto. Dunque, Mercedes perde lo 0,90, Audi perde l'1,76, BMW... scusa un attimo, perché perde il 15-18, quindi direi che nella fascia alta chi va meglio è Mercedes, mentre Audi anche non va malissimo, perché perde solo un 1,76, e mentre BMW invece ha una perdita più consistente, come dicevo prima, attorno al 16%. Ancora l'ultima domanda riguarda invece le sorprese in positivo. Tu già vi accennavi, comunque Gianprimo. Sorprese in positivo non mi pare ce ne siano molte. Ci sono appunto chi tiene, come Volkswagen, migliora, c'è i marchi di lusso che nonostante la crisi, alcuni quantomeno, Mercedes ma anche Audi, stanno andando bene. Per il resto le sorprese le aspetteremo dal governo, perché mi pare che ci sia una situazione che consigli di vedere la possibilità di riconoscere nuovi incentivi, utilizzando una minima parte di quello che verrà portato a casa con la manovra che si sta approvando in Parlamento e che serve naturalmente a dare tranquillità ai mercati e a salvaguardare il debito sovrano, ma certamente avrà un effetto negativo. Sì, però non è che si può andare avanti a colpi di incentivi, perché io lo dico, insomma. Quante auto dobbiamo cambiare per mantenere il mercato? Cioè, primo Quagliano, le vostre prospettive come sono per il 2010, senza incentivi? Per il 2010 noi prevediamo 1.850.000 autovetture, un volume che in questo momento potrebbe essere fisiologico, soddisfacente, è intorno ai 2 milioni di autovetture. Quindi occorrerebbe una piccola spinta nel 2010 per portarsi intorno a questo livello. Poi dal 2011 speriamo che questa ripresa si consolidi e qualche spinta venga anche dall'economia. Vabbè, staremo a vedere. Io non so se ci siano i margini nei conti pubblici per gli incentivi all'auto. Comunque grazie al direttore del Centro Studi Promotor Gianprimo Quagliano. Grazie a voi, arrivederci. E adesso il traffico e poi, se ce la facciamo, appunto il numero uno di Fitch Italia, così cerchiamo di capire questo comunicato molto, molto ambiguo, che lo abbiamo detto, non ci è piaciuto, perché da un colpo al cerchio, un colpo alla botte, parla di recessione, rischi di recessione in aumento, anche se rischi limitati, non si capisce nulla. Vediamo se riusciamo a capirci qualcosa di più dopo il traffico. 18 e 18 minuti. Allora, che cosa è successo oggi? Ripeto, brutte notizie dall'America sui sussidi della disoccupazione, sull'acquisto delle case, sulla spesa per l'edilizia, sull'andamento del settore manifatturiero. Buone notizie in Italia sulla produzione industriale in aumento anche il mese scorso, e poi le agenzie di rating di nuovo protagoniste. Allora, fermo restando che ogni agenzia di rating, sono tre, risponde per e dei casi suoi. Moody's oggi ha praticamente messo sotto osservazione con prospettive negative il debito della Spagna e ha già declassato il voto al debito di 5 regioni spagnole. E poi l'altra, una delle altre agenzie di rating, ossia Fitch, nel rapporto trimestrale Global Economic Outlook ha scritto: la crisi del debito europeo con i suoi effetti negativi sulla fiducia dei consumatori ha aumentato il rischio in Europa di una nuova recessione. Però poi aggiunta: la probabilità che il consolidamento fiscale possa portare le maggiori economie avanzate nei complessi in una nuova recessione nel breve termine rimane bassa. Noi non ci abbiamo capito niente, abbiamo dato un gufo, però per dare a tutti la possibilità anche di aiutarci a comprendere, c'è in collegamento il numero uno di Fitch Italia, dottor Marco Cecchi De Rossi, buonasera. Buonasera a voi. Ammetto tutta la mia difficoltà e quindi anche i miei limiti, ma che vuol dire che da un lato aumenta il rischio di una nuova recessione in Europa, ma dall'altro il rischio resta, nel breve termine resta basso? È un così? Guardi, quello che dice oggi il nostro rapporto trimestrale è che c'è una delle previsioni al rialzo per la crescita globale, prevalentemente dovute a più forti prospettive di crescita in Giappone e nelle economie cosiddette BRIC, cioè Brasile, Russia, India e Cina. Gli Stati Uniti, l'euroarea e il Regno Unito sono invece rimasti in linea con le previsioni precedenti, quindi la notizia positiva è che c'è un rialzo delle previsioni di crescita a livello globale, quindi includendo tutti i paesi e anche le economie dei cosiddetti paesi BRIC. Poi all'interno di questo dei vari paesi ci sono dei paesi che crescono di più e altri che crescono di meno. La crescita nell'euroarea è quella minore e soprattutto non ci sono per il momento sorprese in positivo rispetto alle attese, e pensiamo che l'effetto del contemporaneo restringimento delle politiche fiscali in tutti i paesi europei, ancorché abbia l'impatto maggiore nell'anno prossimo, continuerà a mantenere questi tassi di crescita relativamente più bassi rispetto agli altri paesi. Sì, però mi faccia ricapire. Allora voi dite, la buona notizia è che gli altri stanno bene, perché io abito ancora in Italia per un po', finché mi ci fanno stare, e sono contento. Lei abita in Italia, ma l'Italia è un paese che esporta. No, infatti ci stavo arrivando, dottor Cecchi De Rossi, però sono contento perché più crescono i BRIC, più noi riusciamo a esportare, e l'abbiamo visto. L'Europa, parliamo di Europa, dell'euro non ha avuto nessun miglioramento, e va bene, però mi spiegate perché, insomma, le agenzie oggi hanno titolato aumentato rischio nuova recessione in Europa, quindi sono parole grosse, nuova recessione in Europa, non sono cose, non è aumentato il rischio di un peggioramento dell'andamento economico, cioè mi spiegate se ci credete veramente che l'Europa possa andare in recessione. Cioè, un conto è dire che la ripresa non partirà da qua, e l'avevamo capito anche noi. Altra cosa è dire che rischiamo, come il professor Giavazzi nella prima ora del programma ha detto, un double dip, una nuova ricaduta, come dopo certe malattie. Prego. No, c'è un rischio di cosiddetta double dip, cioè del fatto che ci sia una ripresa che a un certo punto si interrompe e viene seguita da un nuovo rallentamento, ma appunto è un rischio. Di certezze non ne abbiamo, l'effetto delle misure di restringimento dei bilanci pubblici annunciate contemporaneamente può portare in questa direzione, dipendendo da come reagiranno altre variabili, fra cui appunto le esportazioni, i consumi delle famiglie e la propensione agli investimenti. Quindi quello che noi diciamo è che c'è un rischio, quello che noi diciamo anche è che ci sono delle performance attese migliori del previsto in molte aree del mondo che sono importanti anche per l'Europa come sbocchi di mercato. È chiaro che dobbiamo aspettare il corso degli eventi per poi vedere quale degli effetti diciamo prevarrà, se quello più positivo o quello più negativo. Non siamo negativi, come meno male che non eravate negativi, perché quando ho letto chissà cosa avreste scritto se voi state negativi. Però dottor Cecchi De Rossi, avremmo scritto che c'è una recessione in arrivo, non l'abbiamo scritto, anzi abbiamo detto il contrario. Vabbè. No, io leggevo semplicemente aumentato rischio, nuova recessione, mi sembrava un po' negativo. Comunque il nostro gufo è in crisi d'identità adesso. Mi dice sul debito italiano come sono invece le vostre prospettive? State ancora, non siete usciti con un comunicato, ma restano diciamo invariate le prospettive che voi vedete sull'andamento del debito in Italia? Sì, dunque, allora sull'andamento del debito bisognerà vedere quale sarà poi la manovra, l'effetto della manovra recentemente proposta, che è, come sappiamo tutti, ancora in discussione, certo. Se non nei saldi, senz'altro nella composizione, non è rilevante. Per quanto riguarda il rating invece non ci sono novità, cioè il rating rimane doppio a meno stabile e stiamo esaminando anche dopo la presentazione della nuova memoria, quindi, manovra. Quindi stiamo aspettando di vederne la composizione precisa per poi fare una valutazione più avanzata, ma non ci sono cambiamenti né di tendenza né di rating. In un flash la Spagna, visto che oggi Moody's l'ha messa sotto osservazione, anche voi ritenete che resti la parte più fragile, a parte la Grecia che ce la siamo già giocata, ma insomma la Spagna è la parte più fragile? Guarda, il cambiamento di rating della Spagna in peggioramento noi l'abbiamo fatto circa tre settimane fa, al momento appunto in cui le aspettative di crescita hanno anche l'emergere di difficoltà del settore bancario che necessitavano di finanziamento pubblico, mettevano appunto a rischio la stabilità del rating che era, come ricordo, AAA e che non lo è più. Quindi fatto questo aggiustamento dovuto a queste circostanze, che peraltro ora sono tutte emerse e sono sotto esame e sotto l'attenzione del governo della Comunità Europea, non crediamo che ci sia necessità di fare alcun altro aggiustamento per il momento. Va bene, grazie e buon lavoro a Marco Cecchi De Rossi, amministratore delegato di Fitch Italia. Buonasera a voi. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua. Potrebbe anche essere, Carotone, un nuovo comunicato di una nuova agenzia di rating. Felicità momenti, futuro incerto, chi lo sa, la recessione forse sì, forse no. Vabbè, noi abbiamo finito anche oggi. Un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Domani torno in Focus Economia dalle 17 in poi e vi lascio la nostra programmazione. Radio 24. La passione si sente.